ho messo un coso, ho messo il pittone, ho cambiato il pittone e roba. Ah, il pezzo di Lasco li hai messo, oppure Carlo, che sta dicendo? Hai capito cosa è successo a mia sorella? Sono dovuti entrare immediatamente. Sì, già. Lo immagino, perché prima, adesso hanno tutti i doppi vetri pressurizzati, eccetera, ma prima gli aerei erano un po' concepiti, insomma, alla bella meglio, e quelle cose purtroppo accadevano ogni tanto. Guarda, io ho viaggiato anche con la TR-42 turboelica, che sembrava che non ce la facessero a decollare quegli aerei, però diciamo no, erano tutto vibrazioni e cose, non sono turbojet come questi moderni. Quello c'avevano ancora l'eli, che erano pare 60 posti c'avevano quegli aerei, si vedevi tutti i rivetti in vista, sembrava l'aereo di Fantuzzi, però piano piano ci riusciva a arrivare a Genova. Esatto, quelli ce li aveva l'Italia, gli ATR, vibrava tutto quando accendevano i motori, capito? Erano a elica quelli, però già sono durati e hanno lavorato bene gli ATR per un sacco di anni. Cappa, riprendi Gavì. Stasera si parla di aeronautica. Stiamo parlando di aeronautica stasera. Carlo di lì già è vero, così è cadere, vedi tu di lì. Caspita, in aeroporto deve essere bello, diciamo, nel contesto tecnico degli aerei, vero? E diciamo che vediamo un po' di tutto, da elicotteri privati, d'estate vediamo un sacco anche di voli, di aerei privati, di qualche nababbo che arriva, fa due giorni ad Alghero, quindi quelli sono aviazione generale, li vediamo parcheggiati. Io già li vedo anche da vicino quando faccio il pattugliamento, che la notte facciamo i giri di controllo, per cui ci passiamo vicino, ce li guardiamo e ti posso dire che ce ne sono da rimanere a bocca aperta l'estate. Poi niente, ci sono insomma voli militari che arrivano, quando ci sono state le frecce tricolori noi le abbiamo viste da sopra, dal terrazzo, perché l'aeroporto militare è di fronte, capito? E utilizza la stessa pista, capito? È unica. Loro hanno solo il raccordo, ecco, che praticamente li porta dai loro, diciamo, hangar al tratto di rullaggio, però poi partono tutti dalla stessa pista, perché Alghero è nato come aeroporto militare e poi è stato adattato ad aeroporto civile, per cui i militari hanno tenuto sempre la parte, diciamo, più a nord dell'aeroporto, invece la parte, diciamo, civile è di fronte alla parte est, capito? Però la pista è unica ed è lunga proprio per quel motivo, perché in passato veniva usata a livello militare, quindi tutte le piste che erano nate per aeroporti militari dovevano essere più lunghe, e per tanti anni Alghero è stata la pista più lunga, diciamo, di quelli della Sardegna, di aeroporti, proprio per quel motivo. È bello, io ogni tanto di lì ci passo, li vedo atterrando, perché diciamo la tra di Fertiglia si vedono atterrando e sono assurdi, sono tincanti quando li vedi, e poi a me piacciono tanto. Vabbè, per quella domanda che hai fatto poco fa, questo qua è 60. Già si sente allora il bombardamento. Si sente che schicchia. C'è il subwoofer questo, con due 18 pollici, push pull. Questo qua schicchia. No, voleva preso perché alla fine è così. Riprendi Roberto. La domanda, visto che stiamo parlando con uno pratico, visto che ci vive con gli aerei, ma alla base militare ce ne sono, li tengono gli aerei o è solo di ricovero in caso di emergenza? No, ci sono i militari ci sono e gli aerei arrivano tutti i giorni, ci sono voli militari, tipo a volte ci sono anche i voli, spesso arrivano di notte i voli per l'espianto organi, e sono diciamo quei jet veloci che arrivano con l'equipe medica, scendono, vanno a fare l'espianto e ripartono, capito? E arrivano tutti lì all'aeroporto militare, cioè li tengono lì, praticamente avvisano noi e noi dobbiamo scortare l'ambulanza che entra, prende l'equipe medica e poi riesce dal varco Carraio, poi rientrano solitamente alle 4 del mattino, arrivano a mezzanotte e ripartono alle 4 del mattino. Però l'aeroporto militare è sempre attivo, ci sono i militari, c'è la guardiola, infatti noi quando facciamo il pattugliamento abbiamo diciamo una sezione di aeroporto dove che finisce quello civile, entriamo in quello militare e lì dobbiamo sempre chiedere il permesso a loro via radio, capito? Dobbiamo attraversare un raccordo e quindi dobbiamo sempre chiedere il permesso a loro, loro ci autorizzano perché loro sanno ci può essere un volo emergenza. Poi nel periodo estivo ci sono sempre alloggiati i Canadair, quelli del servizio antincendio, li mettono negli hangar militari, capito? No, volevo dire se ci sono aerei tattici, diciamo, tipo i caccia, cose del genere, fermi di lì, pronti a intervenire, o è solo una cosa di passaggio all'aeroporto militare di Alghero, a parte le questioni mediche che tengono pronti gli aerei? Io parlo un F-35, un Eurofighter, ci sono lì dentro o ritengono un'altra postazione? No, hanno solo un Falcon che lo usano sempre per trasporti di militari di alto rango, oppure quando arriva il Presidente della Repubblica, quelli istituzionali ce li ha tutti l'aeronautica, però sono quei Falcon jet veloci, capito? Mi sa che ce ne sono due, capito? E poi arrivano quelli cargo ogni tanto che portano provviste o attrezzature militari che magari sono per altri distaccamenti, capito? Già ce n'è di traffico, non tantissimo, ma ce n'è. Più che altro quelli vanno giù a decimo, tutti questi coso qua, questi diciamo i mezzi militari tattici da combattimento. Sì, anche là hanno, sì, quelli lì sì, però qua insomma si vede d'estate soprattutto e qualcosa si vede, più che altro la base la usano come ti ho detto, hanno un hangar bello grande, ci stanno tutte e tre i Canada, ho visto c'è altro spazio anche per gli elicotteri del 118, tutti si appoggiano là. Vai Davide. Carlo, mentre scusa, non vogliamo fare giornalisti, però ma ti volevo chiedere una cosa. Gli aerei per le spedizioni, per esempio, delle poste italiane, queste cose qua, cosa arrivano di mattina? Cosa arrivano di mattina o di sera? E soprattutto qui c'è, cosa c'è? Poste italiane e poi che compagnie volano per le spedizioni? Allora, da 3 anni qua ad Alghero non arriva più niente. Sino a 3 anni fa arrivava il cargo merci, arrivava la mattina alle 4 e ripartiva la sera alle 22. E, diciamo, trasportava tutto ciò che di poste italiane, ma non solo, anche altri corrieri. Per cui in arrivo arrivava bello carico. E, fuori praticamente portavano tutte le merci e se le praticamente prendevano i corrieri, i vari Bartolini, SDA eccetera, però da 3 anni a questa parte il servizio l'avevano sospeso e per adesso arriva tutto a Cagliari, capito? Non più da noi, neanche a Olbia. Positivo, quindi il trasporto aereo delle merci va tutto a Cagliari e poi da Cagliari c'è il centro di sviluppamento che fa per esempio Bartolini, GLS, SDA, queste cose qui, ho capito. Io pensavo invece che arrivasse ad Alghero, siccome io ho un'applicazione, no? Io ho un'applicazione, un programma dove seguo, vabbè, è un comunissimo programma, dove seguo i voli e cerco di capire tramite la radio che quale aereo sia e queste cose qua, no? A volte mi dà forze italiane e l'aereo delle forze, Air, non mi ricordo bene la sigla, e infatti non ho visto mai che c'è un aereo vada ad Alghero, di che un carro di questi qua vada ad Alghero. Sì, sì, le forze hanno un loro cargo, capito, proprio targato con le icone di Poste Italiane, trasporto merci, ne hanno almeno due o tre, capito, che vengono in Sardegna, però adesso sta tutto andando a Cagliari. Noi abbiamo il deposito, il magazzino, abbiamo la pesa, abbiamo tutto, perché per anni l'abbiamo fatto. Mi ricordo che sulle merci che partivano abbiamo trovato tartarughe nei bagagli, quelle specie che sono protette, abbiamo trovato in mezzo ai carciofi fucili a canne mozze, di tutto e di più, motorini, pistole, armi d'epoca, capito, che ovviamente sono armi comuni da sparo e quindi non possono essere trasportate. La gente cerca di spedire di tutto, capito, ed era un po' una rottura, perché avevamo tutto il sistema radiogeno, quindi dovevamo mandare un operatore lì a controllare tutte le merci. Noi abbiamo tutte le abilitazioni anche per controllare le merci postali, capito, però da 3 anni poi la società di gestione ha detto che non era più conveniente, perché queste, diciamo, compagnie non pagavano quello che dovevano pagare, facevano solo debiti e quindi hanno dirottato tutto a Cagliari. È positivo, no, i carciofi, il fucile e il carciofi è bello, eh? Il fucile e il carciofi è bello, si mimetizza pure. Avanti Robert, un attimo che prendo, devo accendere un attimino il tablet. Ripeto Robert. Ah, fammi proprio dire, stavo facendo vedere la televisione a canale 5 gli oggetti smarriti nell'aeroporto, ma di tutto di più c'era, a cose allucinanti, vabbè, a parte sedia a rotelle, forse qualcuno, dico, come ha fatto a dimenticarsi la sedia a rotelle, e sono tutte catalogate, c'era orologi, gioielli, bigiotterie, e ci sono tanti scaffali separati, tutte queste cose, ma c'erano cose impensabili, cose che uno dice, ma come fa a dimenticarsi una cosa del genere, a parte, vabbè, telefonini, può capitare, tablet, tutte queste cose, mettono all'asta, le mettono su internet e poi si acquistano. Dimmi, cosa ne fate voi della roba che trovate, Carlo? Guarda, da noi dimenticano di tutto, telefonini, computer, tablet, argenteria, cose d'oro, dimenticati nelle vaschette oppure dimenticati ai tavolini del bar, e poi portano tutto a noi. Ciò che portano da fuori viene radiogenato, poi lo cataloghiamo, portafogli con soldi, documenti, quelli vanno in polizia, la polizia verifica, poi li custodiamo tutti noi, li dobbiamo catalogare, archiviare, trovato portafoglio con 280 euro in contanti, carta di credito, numero eccetera, della banca X, documento di identità, tessera sanitaria, e li teniamo da noi. Molti vengono a recuperarli, soprattutto quando sono borsette che contengono documenti, borse del genere, però purtroppo molte volte non li ritira nessuno, anche macchine fotografiche di un certo valore. Li teniamo 2 mesi, 3 mesi, perché poi non ci sta più niente, e poi una volta catalogati li consegniamo al comune di Alghero. Il comune di Alghero li tiene circa un anno, capito? Dopodiché fa le aste e vende tutto, e non puoi più reclamare niente. Ah, così, pensavo fossero tempi più brevi per fare le aste, invece no, però le aste non li pubblicizzano, non li prendono. Come fai tu, per dire, se uno vuole partecipare all'acquisto di qualche oggetto? Sì, il comune di Alghero lo rende pubblico, capito? Penso solo a livello locale, però se uno fruga su internet, comune di Alghero, aste per oggetti smarriti, qualche giorno fa c'era qualche articolo, mi stavano dicendo, riguardo gli oggetti smarriti, e molte volte ci sono computer, tablet, anche della Apple, capito? Un sacco di roba, ma tanta ne dimenticano di cose, anelli, fedi, capito? Poi magari ti vengono dopo un anno a reclamarli, noi diciamo no, andate al comune, vedete un po' se il comune li ha ancora, altrimenti se non li ha il comune vuol dire che li hanno dati via. A me mi era capitato che avevano smarrito la cosa, la valigia, perché l'avevo messa in silva, l'hanno smarrita, poi già ce l'hanno recuperata dopo un paio di giorni. C'era un giapponese, poverino, mi ha fatto una pena. Questo nonostante tutto era sorridente, non parlava una parola di italiano, questo solo inglese, è rimasto lì, perché eravamo gli ultimi due aspettando le valigie, aspettando. Alla fine aspetta la mia, finisce tutto il giro, di quando ti consegno la valigia, stavo arrivando da Tirana, io tieni presente, per cui dovevo andare via Roma e poi da Roma a portarla a Coso, era la doppia E, riprendevo, per rientrare. Non è arrivata la Coso, la valigia, questo non so dove stesse arrivando, perché era Fiumicino, la stessa cosa, aspettando, e non è arrivata, sarà andata la valigia, purtroppo è smarrita, non si sa, vedremo di recuperarla. Poi mi sembra il giorno dopo, due giorni dopo, mi hanno chiamato, sono andato e l'ho presa. Ma questo povero giapponese che non parlava una parola di italiano era lì fermo come un fesso, non so poi se qualcuno l'abbia aiutato, non lo so. Eh sì, ma ne capitano spesso di persone così, che poverini non se la cavano con le lingue, quindi parlano solo la loro, e per carità, a volte ti trovi il polacco che non capisce l'inglese, non lo sa parlare, e credimi che parlare in polacco è difficile. Sì, è perché il giapponese è più facile. Oh, datemi 5 minuti che arrivo subito, che okay. Ci sei? Sì, positivo. Ripeto tra poco, datemi 5 minuti, dai. Vai. Sono Carlo, non è dell'arabo. Io sono andato a lavorare nel 2009, sono andato in Arabia, diciamo nei paesi arabi, a Dubai, ad Abu Dhabi, abbiamo fatto Fiumicino, Roma, siamo arrivati a Doha che erano le 11 del mattino, e poi da Doha ad Abu Dhabi erano sempre le 11 perché c'era il fuso orario, capito? Arriviamo lì all'aeroporto, non capivo niente, ma quello non si capisce niente, e lì bisogna stare anche attenti perché ti ruba, ti prendono i passaporti, capito? Si spacciano per poliziotti, per coso, per la polizia, per le forze dell'ordine locali. E invece ti prendono il passaporto e sono guai. Ho capito, sì, io ci sono andato 4 anni fa negli Emirati, però ho fatto Malpensa a Dubai, e poi da Dubai ci siamo stati una settimana con la famiglia, siamo andati ad Abu Dhabi, dove poi corrono anche il Gran Premio, abbiamo visto lì insomma tutto quello che c'era a vedere. Dubai è bella come città, solo che non esistono marciapiedi, devi fare tutto in macchina, in taxi, costano una miseria, a dire la verità. C'è la parte antica molto bella, dove c'è il mercato dell'oro, il mercato del pesce, è un po' pericoloso, però diciamo che i turisti già li controllano abbastanza. Sì, no, io sono andato a lavorare con la Tecnimont nel 2009 e lavoravamo a 700 km da Dubai, lavoravamo a Tarif, in raffineria, nel deserto, no? nel Golfo Persico. Sono andati 3 giorni a Dubai, noi perché ci hanno dato questa cosa, premio dall'azienda, siamo andati 3 giorni di lì, abbiamo fatto Dubai e Abu Dhabi. Sono andati a bere una birra, un coso in un hotel, perché di lì non c'è alcol, al 52° piano. Tre birre c'erano costate 1.000 dinari. Lo so, io per esempio i taxi dall'albergo per arrivare al centro commerciale di Dubai, Dubai Mall si chiama, no? Tutto il centro commerciale, spendevo l'equivalente di 6 euro, quindi una fesseria, perché se prendi un autobus ti costa 2 euro a persona e avremmo speso anche di più, capito? Noi eravamo in 4, io, mia moglie e i miei figli, spendevi 6 euro, il tassista ti portava sino ai parcheggi, da lì prendevi gli ascensori e ti portavano su proprio al centro commerciale. Costava poco anche i ristoranti, quelli internazionali dove trovi cucina italiana con i cuochi italiani, una fesseria. Ci sono poi lì al centro commerciale, al Dubai Mall, trovi di tutto, trovi, che ne so, vuoi mangiarti una cheesecake col tè, trovi il bar inglese dove hanno tutti i dolci inglesi, capito? Quindi la fame non la soffri, ma neanche la sete, perché tutto aria condizionata. Tu considera che io sono andato a luglio, quando là ci sono 42-43 gradi all'ombra e il clima è quasi irrespirabile, ma tanto facevi tutto tassì, aria condizionata, e solo la sera tardi si stava bene, però durante il giorno era irrespirabile il clima. Io sono partito ad agosto, in pratica sono arrivato di lì il 13 agosto 2009, e era pieno periodo del Ramadan, quindi perché lì davanti a loro non puoi bere, visto che tu in pubblico gli dici, almeno dove lavoravamo noi, non potevi bere. C'erano 45, 46, in raffineria sono arrivate anche a punte di 47 gradi, e pensa, cioè tagliando a cannello, saldando, queste c'erano soprattutto, vabbè, noi eravamo italiani, però la manovalanza era tutta pakistana, era tutta indiana, e araba non c'era nulla, era o pakistana o indiana. Noi stavamo bene perché dormivamo, diciamo, nei prefabbricati, avevamo un prefabbricato a persona, letto matrimoniale, condizionatore, acqua, ci portavamo tutti i giorni due casse d'acqua, le portavamo tutti i giorni. Avevamo la scheda, tu pensa, avevamo la scheda telefonica, si chiamava Etisalat. Io ai tempi chiamavo mia madre e spendeva 20 euro lei, 200 e quasi 300 dinari io per parlare 10 minuti. Noi facevamo proprio cucinare, c'era nel campo lì, c'era il cuoco, era organizzato benissimo, tutto, c'era il gruppo elettrogeno, c'era il campetto da calcio, c'era il campetto da basket, la palestra, la televisione, avevi in camera con satellizzare, avevamo tutti i comfort, però lavorando noi eravamo in 16 e tutti e 16 avevamo sofferto come cani, perché non essendo abituati a quelle temperature era proprio una cosa bruttissima. Siamo trovati a livello lavorativo, ci siamo trovati proprio a disagio, un disagio totale. Facevamo due ore e mezzo da fermi, perché poi anche per bere dovevamo andare dentro gli uffici, perché davanti a loro non potevi portare acqua. Questa gente non gli davano da mangiare, mangiavano un pugno di riso ogni tre giorni, dormivano in 40, entrate in 40 dentro i container in ferro. Wow, una pena. Sì, ho capito. Gavi, ti chiedo scusa un attimo perché devo rispondere a mia moglie al telefono, che mi ha mandato un messaggio, e siccome è a Roma e rientra domani, e mi ha avuto un problema con la carta, col bancomat, pensa, è andata al Vaticano e siccome risulta all'interno di un altro stato non gli ha funzionato, è andata a fare una transazione, praticamente non gli ha funzionato, perché la carta andava praticamente abilitata per per l'uso all'estero, anche se all'interno del territorio nazionale, diciamo, il Vaticano sono pochi chilometri quadrati, roba da matti, la Banca Intesa a volte fa cagare. Riprendo subito, vediamo se è entrato Roberto, se no riprendo io come termino. Ti chiedo scusa un attimo solo. No, tranquillo, fai quello che devi fare, Fabio. Sì, io sono qui in ascolto. CQ10? Sì, Roberto. Faccio tutto spento, ci sei ancora qui? Sì, sono qua. È andato via. Sono in radio, intanto non siamo usciti, quindi sono tutta la sera in radio. E anche io da presto ci sono qua. Sono state le 6:15. E io stamattina ho lavorato, poi dopo pranzo mi sono pubblicato, quindi verso le 4:30, dalle 4:30 in poi iniziavo, facevo qualcosa, qualche connessione, qualche sono in radio. E sono in radio, va bene, sono a posto, va bene. Ma Carlo è andato via? Carlo è andato via, va bene. Carlo sta facendo un attimo di bianco perché doveva fare una massa, lei. Carlo, dimmi un po', questo è il 60, dove l'ha acquistato? No, mi conosco. Ah, e quanto ce l'ha il livello microfonico tu? Mezzogiorno. Mezzogiorno, aspetta, però quello, tu c'hai qua, il 4:50 stiamo parlando. Positivo. Spinge parecchio, processore inserito. Yes, yes, processore inserito, sono a braccio disteso, ho il braccio disteso. Si è cambiato la giorno alla notte, prova a toglierlo il processore, cosa cambia? Guarda un po', processore disinserito. No, prova, c'è l'abisso, però spinge che parecchio quella radio. Sì, ma considera che non è che la sto portando con, cioè è tranquilla, non la sto tirando, il carrier a 2, proprio mi sembra che sta dando, aspetta, sta dando 25 watt modulati. Adesso sta guardando il livello, abbassa un peluzzino però, a che distanza sei dal microfono, Gabi? Sono un braccio, comodo, un braccio. Abbassa un peluzzo, sei leggermente fuori, perché io qua ho dei limiti che mi sono calcolato utilizzando delle cose, degli strumenti. Sei un pochettino, sai, iniziando a lampeggiare il rosso. Guarda un pochino, a vedere. Adesso l'ho abbassato, ore 11. Adesso va molto meglio, perché di più 2 dB oltre il limite, e 2 dB non sono pochi, cioè se alzi un po' la voce tendevi un pochettino a saturare, adesso va bene, se tieni la distanza così l'intensità di voce va bene, sei giusti i limiti. Ma lo posso anche prendere, posso, guarda, aumento il delay e non dovrebbe fare una cosa del genere, adesso c'ho il delay che diciamo alle 14, niente, guarda se è cambiato qualcosa. Così è perfetto, se lo tieni così la distanza dalla bocca e non alzi troppo la voce è perfetto. Sì, sì, sì, com'è la guerra? Era la guerra, prima era combattimento, arma tattica, la distruzione di massa, adesso è tranquillo, arma tattica però all'occorrenza della distruzione di massa. Bomba tipo distruzione di massa, a spaccare tutto. Posso anche, magari posso anche aumentare qualcosina di più di matto, ma non mi interessa niente, la tengo calma, così tranquilla e serena, intanto non c'è bisogno. E addirittura ho anche l'accordatore disinserito, perché non ho fatto un'area in antenna, quindi l'accordatore è disinserito. Sono la linea dell'LC è abbastanza bassa. Capa, fai un passaggio breve in FM, ti voglio sentire. Ossia che rientri Carlo. Sì. Ma no, neanche con 10 watt non è ferma. Io però mi sa che sto spingendo troppo qua. Aspetta un pochettino che lo teniamo. Sono una quindicina di watt. Il segnale com'è il mio? Un passaggio qua. Ma roba. Ma me la porto di QRM appresso? Ho la telefono canale 10. Non ti porti niente di QRM appresso perché tu alla me sei 9:20 a picchi positivi. Qua sei 9:10 lo superi. È positivo, no, qua da me modulazione sei 9:20 a picchi positivi, dai. La radio, vabbè, non c'è bisogno di dirlo, che è 10. Quindi siamo tutto positivi. No, sono contento che hai fatto la giusta accoppiata, perché è un peccato avere poi certi tipi di radio e poi utilizzare un microfono qua al mare, va bene, tutto quello che vuoi, però la comodità di sederti, schiacciare il tastino come faccio io, se di agire quello di fronte al microfono, rilassato e anda. No, vabbè, io ho anche le MC80, però adesso le MC80 l'ho attaccato all'ICOM e all'altro, e qua, no, dovevo prenderlo, però... stavo aspettando per trovare trovarne uno buono, mi segui Robert, perché se volevo lo compravo la prima, però ne ho trovato uno impeccabile, nuovo, e me l'ho preso. Niente, va bene così, va bene così, ma lo volevo prendere, ma cosa da fare? È giusto, io ne ho due di MC60, uno che ci ha dato lo stesso amico nostro, se parlavamo dello stesso amico, ma immagino di sì, e poi ne ho preso uno ancora più nuovo di quello, però era esploso, questo è entrato un fulmine ed è esploso, tutti i pazzi, e detto, Fabrizio l'ha ricostruito, le ha fatto tutto il circuito, non c'è nessuna differenza perché ho fatto le proprie comparative, proprio attaccando uno poi mettendo l'altro per vedere, e sono esattamente identici. Sì, vabbè, me le immagino. Quando uno è un professionista non c'è niente da fare, vabbè, poi quando è appassionato le fa bene, poi cioè, so che lavora, io non lo conosco personalmente, ma so che è un grande appassionato e fa i lavori come devono essere fatti. No, Fabrizio, per essere appassionato fa le scarpe a tanti tecnici, diciamo, che si credono tecnici. Esatto, la cosa bella è quella, quando non hai nessun tipo di, diciamo, quando non si fa propaganda di essere tecnico, poi però sotto sotto davvero gli attributi, è una cosa assurda. No, mi ha detto che è molto bravo, cioè mi ha detto, a me non mi dice niente nessuno, sempre diciamo, un altro amico mi ha parlato molto bene, perché ha detto che è molto bravo. No, ma poi con ragionamento ci arriva. Allora, questo 440, che io ne ho avuto diversi 440, questo era nuovo, la rebilla da Coppa di Mazzetta, non si sa per quale motivo l'hanno spaccato davanti, tutti i display, tutto qua, e lui me l'ha rimesso a posto, tanto che lo stava a prendere, ha cambiato tutti i condensatori, ma ne avrà cambiato una cinquantina, proprio quelli classici che si crepavano. Poi mi aveva sistemato il 940 che non accendeva, aveva dei problemi, ha sistemato l'alimentazione e poi altre radio, veramente bravo. Poi quando arriva a un certo punto che non ce la fa, dice no Robe, qua non ho le attrezzature, anche se ce l'ha, però quando sono certi tipi di cose, dice no, di lì non ho lo schema, non posso metterci le mani. Però ti ripeto, per essere un appassionato è veramente bravo, si appenta, poi è bravo anche questo, deve anche altre cose, facendo restauri di moto, di macchine, costruendo antenne, facendo lavori al turno. Lui ha un garage a San Cossola, ma tu solo vedi cosa costruisce, lavori spettacolari, poi un bravo soldatore, se la cava un po' da tutte le parti. È per quello che mi dà te, sono bravo, perché Fabrizio è un signore, soprattutto non è uno di quei presuntuosi che sanno tutto loro, è veramente bravo ed è una persona, un amico vero. Di nuovo Gavino. No, assolutamente. Quando uno mette, dai, quando c'è la passione è tutto, magari se lo era costretto, magari se lo costringi neanche te ne fa, mi segui, magari con le persone, gli dice mi devi fare, no, mi devi niente, se non voglia te lo faccio, altrimenti prendilo pure per riparare. No, ma poi c'è di buono, a me mi dà anche fastidio molte volte a chiedere, dico Fabri mi è successo, portamelo, ma dai, non ti preoccupare, portamelo, non si sa, ma sino a dove riesci ad arrivare, sino adesso sono riuscito ad arrivare molte cose importanti, e poi è uno di quelli che si appenta, dai, che si mette, e magari una cosa che non ha mai visto, se la studia, ti mette le mani e si riesce anche a riparare. E vediamo se è rientrato Carlo, se lo riprendi tu. No, non è rientrato, ma fa anche apparati audio, diciamo audio, amplificatori audio. Allora, non so se ne abbia fatto, ti ripresenti che lui è un giudice di gara, è da una vita che fa impianti per auto, diciamo, ha fatto gare, cose del genere, lui fa il giudice delle, anche se adesso non so se lo sta facendo ultimamente, mi ha fatto vedere quello, allora io lo conosco a Fabrizio, quanti anni lo posso conoscere, facciamo almeno più di 30 anni. E lui c'era una macchina, lui allora era un Opel Vectra, forse più di 30 anni, c'era la Sassa di un impianto, penso che ancora non ce l'avesse ancora, con impianti in Accamici, cioè l'autore di un Accamici in macchina a Sassa era una cosa rara, muti amplificati, eccetera, se avesse comandi al volante, fatto da lui tutto quanto. Adesso l'altro giorno l'ho visto sulla macchina della moglie e non ha preso il vizio, ho detto cos'è questa cosa? Un impianto veramente fatto bene, molto si appena parecchio. Sì. Magari è appassionato di queste cose qua ed è bravo. Io impianti audio nella macchina, io l'impianto audio l'ho avuto bello nella tema. Capito il mio impianto? Sì, ma a livello di mettere batterie in cofano, condensatori, tutti, avevo due doppi 15 pollici a schienale, tutto il fronte anteriore, finali auto, non avevo bella roba. Allora, quest'estate, l'estate passata sono andato, siccome a Torre Grande fanno l'SPL, il campionato SPL, c'era una macchina, mi sono spaventato, cosa c'aveva di a parte la quantità dei componenti, la qualità dei componenti, delle trombe che usano professionali da concerto della GBL, c'era messo gli sportelli apribili come la Lamborghini che si sollevava, era una, non ricordo che cazzo di macchina, se era una punta, ma tu vedi cosa c'aveva di amplificazione questa macchina di finale, era una cosa mai vista, condensatori da paura, cavi di alimentazione ne manco la centrale elettrica. Quello che mi ha impressionato, le portiere non c'erano, i cristalli non esistevano, ho costruito una portiera che si apriva tipo alla, non alla Gabbiano, quella è tipo l'hamburger, alla Gabbiano era la SL, la Mercedes, con cosa c'aveva di componenti questa macchina, era una cosa da paura. Dietro c'aveva questi mega woofer da 45 centimetri dietro nel coso, faceva rumore, nel senso non era di altissima qualità il suono, perché era di quelli a fare bu bu bu bu bu bu bu bu, che te ne scendeva, vedevi questa macchina si muoveva dall'intensità sonora, boh, c'aveva avuto 140 dB, 150, non lo so, ed era con il crossover elettronico separato, era solo per fare, l'hanno portata con carro elettrico questa macchina, era solo dimostrativa, e dietro c'era la centrale di comando, tipo quando fai concerti, che c'è il reparto mix e tutto quanto, lui c'aveva i crossover elettronici per comandare questa macchina, con gli impianti di batterie da paura, perché non ce la faceva le batterie alimentarlo questa cosa, e non so quante ne ha portato di batterie per far funzionare questo, poi alla fine non bastavano neanche, ed era fronte anteriore e fronte posteriore, era una cosa da vedere questa macchina. Le gare saranno gare di SPL, le gare da, diciamo, SPL tuning, io le seguivo prima, poi non ho avuto più tempo di niente. No, perché se fa riparazioni di roba audio, dai, diciamo che è buono, se fa riparazioni di roba audio è buono, tipo o magari roba QSC, queste cose qua mi segui, perché i tecnici bravi non ce n'è più. Lo so, ce n'è uno, però è peggio che darlo a coso, a portarlo in Nord Corea a riparare, perché questo è lungo più del mese di marzo. No, Fabrizio, lo sai cos'è il problema? È impegnatissimo perché c'è tante cose. Adesso stanno sistemando la casa, sta facendo delle modifiche, deve rimettere le tralicce, adesso non vedo l'ora che finiscono i muratori. Mi pare che da settembre che stanno lavorando questi muratori. Chi ha innalzato ha fatto un piano sopra. E ancora deve, tutto in alto mare, infatti nessuno si permette di chiedere, però lo fa solo così per amicizia, non per lavoro, qualche volta può capitare, glielo chiedi, Mari, si può chiedere, cosa devi fare per... No, io niente, noi rimandiamo l'assistenza, no, niente, no, magari, sai, qualche, se si trova qualche, io parlo a livelli di, non di lavoro, a livelli di, diciamo di obbistica, se si trova qualche finale anche di quelli QSC anche danneggiati, diciamo per fare audio personale, non per lavoro, magari si prende, perché in genere non aiuta più nessuno. Io sto cercando un QSC, un vecchio QSC, e se lo trovo lo prendo, però sono quasi tutti da riparare, quasi tutti da riparare, e ci vuole un tecnico che si metta, che non ha, che diciamo un appassionato che lo faccia bene, senza guardare a spese, perché quello che c'è da spendere si spende. Però ci vuole una persona appassionata per farlo, perché non ce n'è più persone che aiutano questi affari. Soprattutto puoi trovare componenti selezionati, eccetera, eccetera. Io correvo anche in riparazione, alla fine l'ho tenuto fermo, perché quei componenti li trovavo, quei transistor, quei MOSFET, però dovevi prenderli tutti selezionati e tutti dalla stessa partita, Motorola, eccetera, eccetera, dovevano arrivare dall'età, alla fine ci ho rinunciato, l'ho messo da parte e basta. Poi quando sarà un bel capo di amplificazione, perché mi dispiace tantissimo, però adesso c'è altre cose più importanti, pronto a piazzare, perché allora un anno me l'avevano mandati dalla Revac direttamente, c'era un problemino allo stadio per amplificazione pilota, dai, me l'avevano mandati direttamente a regalo, ti devo dire a regalo, una cosa mai vista, conosciuti questi, gli ho detto il problema, me li hanno spediti gratuitamente, ma stiamo parlando 1985-86, questo amplificatore, sai, 87, dai, e mi avevano mandato dei componenti loro direttamente dalla Revac, non hanno voluto una lira. Perché ai tempi si lavorava bene, dava un servizio al cliente. Eccomi. Adesso invece se possono te li fanno pagare quanto la parecchia. I componenti, per carità, guarda, non tocchiamo quel tratto, lascia perdere robe che stanno facendo schifo, sia per i componenti, sia per l'autoparlante, sia per tutto. Vai a prendere quattro driver, non ti bastano 2500 euro, 2000 euro, ma stiamo scherzando. Avanti Carlo. Stavo chiacchierando con mia moglie, che aveva diverse cose da raccontarmi, perché a Roma, e quindi aveva un problema con la carta di credito, poi ho scoperto perché. Praticamente la carta non la carta di credito, il bancomat l'ha usato a Città del Vaticano, e quindi risultano usata in POS in un paese straniero, e quindi non era stato attivato l'uso della carta bancomat al di fuori del territorio nazionale, e quindi non gli ha passato un'operazione. Meno male erano i biglietti dei musei vaticani, e quindi poi alla fine ha pagato in contanti, e ho detto quella la dobbiamo attivare o dall'applicazione o dal computer, quindi parlando un po' di queste cose. Oggi avevano l'incontro col Papa, perché mia moglie fa parte della comunità di Sant'Egidio, e adesso abbiamo ospitato un profugo afghano che ha chiesto asilo politico perché gli hanno ucciso tutta la famiglia, questo era uno studente, e quindi ce l'abbiamo a casa, quindi adesso mia moglie, mio figlio e questo ragazzo afghano sono andati oggi perché c'era in Vaticano l'incontro del Papa con chi ha chiesto asilo politico, chi è entrato con i corridoi umanitari, e quindi erano in giro un po' per Roma. Dice che è pieno di polizia, di tutto, perché domani c'è la maratona, c'è il derby, e insomma Roma è tutto un altro mondo rispetto alla calma che abbiamo qua, capito? E quindi mi ero un pochettino assentato, mi stava raccontando queste cose, dai. Non vi voglio interrompere più di tanto, riprendete pure, poi già sono in ascolto e sono qua. Oh, ci mancherebbe Carlo. No problem, intervieni anche tu, tanto stiamo parlando di roba audio, se sei appassionato anche tu. E diciamo che io, a me piace un po' sentire la musica di tutti i tipi, e quindi mi sono organizzato io con una cassa di quelle Bluetooth, però bella potente, della Creative, alla quale è attaccato una base subwoofer, eccetera, collegata alla TV col cavo ottico, e quindi col telefono posso selezionare tutto quello che voglio e me l'ascolto là. Vai Gabri. Sì. Allora, stavo parlando di roba, un po' di roba hi-fi, di quelle che piacciono a Roberto, di quelle vintage, qua. Roberto gli piacciono quelli sfera a colonne, quelle alti 2 metri, con gli autoparlanti alti due metri, con i suoni da paura. Mi sa che piacciono più a te, almeno ti sei fatto anche la fotografia. Oh, io riprendi qua. Sì, li ho avuti anch'io quelli tanto tempo fa. E ce ne sono anche di belli, a colonna, così ti fai tutti i vari pezzi, eccetera. Solo che ormai è tutto compatto, tutto moderno, senza fili o quasi senza fili, tutto con tecnologia Bluetooth, e ormai è quello che va, capito? L'importante è che si senta bene, però poi alla fine. Vabbè, mi allontano un attimino che mi è successa una cosa. Scappa. E lì la tua moglie, se sono a Roma, stai attenta alla stazione Termini, hai visto? Milano e Termini sono micidiali, le bocceggiatrici che ci sono, le ne stanno rapinando poca. Sì, no, ma Legia è tranquilla, c'è mio figlio, c'è questo ragazzo afghano e già li ho messi, insomma, in allarme, a stare attenti ai borseggiatori, soprattutto quando prendi i mezzi, perché loro ci sono 3 giorni, rientrano domani sera, e si sono visti un po' Colosseo, Fontana di Trevi, hanno girato. Oggi dalle 9 erano in Vaticano e hanno finito alle 7 di sera, perché praticamente dalle 9 sino alle 16 c'era l'udienza alla Sala Nervi dal Papa, e avevano anche il pranzo lì, tutto pagato, e poi di sera, quando sono usciti, visto che erano lì, sono andati ai Musei Vaticani, gli hanno fatto lo sconto e hanno pagato solo 7 euro a persona, invece si pagano 15 euro, allora gli hanno fatto lo sconto invece, perché erano ospiti là, però il Vaticano ne fa i soldi a palazzo con quella roba lì. Già lo credo. Allora, vuoi sapere una cosa del Vaticano? Ehi, dimmi. Lo sai qual è la città al mondo che ha più atti criminali, diciamo, di furti al mondo? E sarà il Vaticano. Io sto scherzando, la città del Vaticano, dove si causano per abitante il numero maggiore di furti, borseggiatrici, eccetera, eccetera. È perché è pieno di turisti, e i turisti praticamente sono quelli meno attenti e sono sprovveduti, perché non sanno che ci sono i borseggiatori in giro, capito? E quindi magari lasciano borsette aperte mentre sono in giro, e poi alla fine sono quelli che denunciano poi lo smarrimento del portafoglio, perché dentro c'erano i documenti, è ovvio. Lì c'è, mi ha detto mia moglie, che oggi ai Musei Vaticani c'era il mondo, c'era una fila da 1 ora e mezzo praticamente. Roma è già tutta piena di gente, pieno di polizia, di esercito, perché ci sono 1000 manifestazioni, e dice che comunque è già tutto pieno di gente, come iniziate insomma il bel tempo oggi, vabbè, anche fine settimana, quindi sabato e domenica ci sarà stato un casino di gente. Dice alla Fontana di Trevi lì era pauroso, tutto pieno di turisti, tutti a fare foto, dice era una cosa impressionante dalla gente che c'era. Però Roma è sempre stata così, E poi considera che oggi c'è una bella giornata, probabilmente la prima bella giornata dell'anno. Sì, infatti, c'era gente dappertutto, file nei musei, eccetera. Loro volevano andare domani, vogliono fare le catacombe, che mia moglie non le ha mai viste, ci voleva andare. Mio figlio ha detto ma sono lontane, eccetera, qua e là, però poi dice l'ha convinto, dice quindi domani si alzano presto e non so che mezzo prendono, insomma, vanno a vedere queste catacombe, dopodiché faranno un giretto al centro, via Nazionale, e poi pranzano e verso le, diciamo, le 5 si avviano verso stazione Termini, da lì prendono il treno che li porta all'aeroporto, capito? E rientrano intorno alle 10:30 qua ad Alghero, diciamo. Di notte, intendi? Sì. E rientreranno stanchi morti, perché quando stai in giro così, dopo 3 giorni rientri che sei sfinito. Però sono belle soddisfazioni, dai, belle esperienze. Vediamo se Gabriele è rientrato. Avanti, Gabriele. No, oggi stranamente c'ho QRM4, raro. È molto alto, No, non è molto alto, qua normalmente è 7-8 il QRM. E infatti io ce l'avevo ancora, lo squelch regolato da stamattina, che era altissimo, adesso l'ho abbassato, effettivamente sì, si è abbassato molto il QRM. Una domanda, tra me e Gavino, che utilizziamo più o meno le stesse radio, però il microfono è uguale, intensità microfonica, molta differenza noti tra me e lui, perché adesso io gli ho fatto una regolazione, guardando strumentalmente, te l'ho fatta abbassare un pochettino. Allora, va bene, tu sei anche vicino qua, io ho parlato anche con te di persona, quindi conosco anche il tuo timbro di voce, e anche al microfono ti sento, la voce tua è bella, chiara, la timbrica è perfetta, capito, pulita pulita. Gavino lo sento anche di segnale meno forte ovviamente perché è più lontano, però il suo microfono è bello potente, ma non mi sembra molto pulita, capito, la voce. No, io parlo come intensità, forza, dire, non parliamo qualità, qualità è un altro discorso, perché dipende anche dalla radio, magari questo del 440 va meglio del 450 in AM. No, volevo capire il livello microfono. No, il livello è più forte il tuo, Robè, qua mi arrivi ovviamente di segnale fortissimo, ma anche il microfono come intensità è più forte del tuo. Lui quanto ti arriva di segnale, Gavino? Qua mi arriva a Santiago 7. 7? Sì, sì, io c'ho quella LED, tu mi fai 9 più 30, questa c'ha la scaletta, c'è 9 più 30 quando parli tu. Addirittura 7, cavolo, io pensavo arrivasse più forte da te. No, no, no, negativo, lui mi arriva qua con Santiago di 7, poi non so con quanti watt lui stia uscendo. No, vabbè, non sta spingendo come non spingo io, però qua mi arriva a 9,10, lo supera. Siccome tu sei numero uno come postazione, pensavo ti arrivasse almeno 9,20. Guarda, con questa radio mi segna 7, dopo quando rientra Gavino lo controllo meglio, però il LED sale sino a 7. Eppure mi arrivano segnali 9,30 e vabbè, Gavino, se non sbaglio, è quasi vicino a Porto Torres, o sbaglio? Esattamente non lo so, però penso più verso Sassari che verso Porto Torres. Però è abbastanza distante da Sassari. Ma Giulio ti arriva più forte di lui? Sono rientrato. Gavino, con quanti watt stai uscendo? Allora, sto uscendo con 25 watt. E vedi, adesso ho controllato e mi dà, e accende 3 LED, Gavino. Se ne va sul 5, non sul 7. Ma vabbè, probabilmente non è affidabile quel coso, quello strumento. Questa è la radio piccolina, capito. Tu mi arrivi in fondo scala 9 più 30, perché c'è sino a 9 e poi c'è il più 30 e si illumina tutto. Vabbè, noi siamo attaccati, siamo vicini, saremo forse un chilometro. Sì. La radio è chiara, Carlo. Sì, la radio è chiara, infatti no, perché Roberto mi chiedeva come intensità di microfono, come eri tu e come era lui, capito? E diciamo che forse non arriva forte il segnale, quindi anche meno intensa la radio, capito? Io la sento così, probabilmente è dalla posizione. Io non so, Gavino, più o meno come sei ubicato tu da qua, ma cioè io quanto ti arrivo di segnale lì da te? Tu da me qua sei 9,5, un segnale buono. Io sono dalle parti, Carlo, del, diciamo, l'ex fine della strada vecchia di Sorso. Niente, sono quasi, dai, sono un pochino, dovrei essere un po' coperto, però per Sassari, tu mi dovete ricevere bene, perché a quanto ho capito sei dalle parti alte. Sì, esatto, io anche Porto Torres qua parlo con Eugenio e mi arriva Santiago 8, qualcun altro mi è arrivato anche 9 da quelle parti là, e invece il tuo segnale è così, però tieni presente che io adesso sto usando una radio piccolina, una President Bill, e quindi non so fino a che punto sia affidabile. Questo è uno strumento a LED, quindi non è quello, diciamo, classico. Può darsi pure che sia un po' la radio avara, capito, di segnale, perché di radio io ti sento bene, ma anche il segnale passa tranquillamente. Ascolta Carlo, invece dell'altra avevi risolto? Ho parlato oggi con Albino, che me la sta rimettendo a posto, e mi ha detto che deve ordinare un pezzo, capito, e dovrebbe arrivargli forse questa settimana, e mi ha detto che al 90% riuscirà a metterla a posto, e poi se no me ne prendo un'altra. No, vabbè, si riesce a rimettere a posto quella, perché era molto bella come radio, qua mi arrivava, benissimo da me, non c'erano problemi. Ascolta Carlo, un'altra cosa, ma cosa è stato causato il danno? Ti ha saputo dire qualcosa? Cioè la causa proprio effettiva del danno, cosa può essere? Te lo chiedo perché, cioè magari è una cosa di alimentazione, non è che magari l'aggiusti e poi hai di nuovo quel problema. Allora, il giorno prima e due giorni prima che mi succedesse lo spegnimento della radio, era mancata corrente qua a casa, in tutta la via si è spento tutto, è mancata corrente per un'ora, eccetera. Evidentemente come è tornata magari di colpo è quello che ha causato il danno, però lui mi ha detto che può essere sì dipeso da uno sbalzo di corrente, magari è arrivato troppo, però mi sembra strano, perché l'alimentatore sta andando bene, e attualmente lo sto usando, è sempre quello, è a 30 ampere continui, capito, quindi non è neanche un alimentatore piccolino che sporta, eccetera. Non lo so, lui mi ha detto che è quello, comunque ha bruciato una scheda che però si può estrarre e reinserire, perché è fissata con una vite, e poi c'ha lo spinotto, capito, fortunatamente, e secondo lui, dice, sostituendo quel pezzo lì, ha detto che costa intorno ai 18 euro, ha detto che ne aveva riparato un'altra con lo stesso problema come la mia, e per quello io gli avevo scritto prima: guarda che questa marca, questo tipo di radio, se puoi, e lui mi aveva detto sì, portamela, e poi ci dovrò un po' lavorare, vedere che cosa c'è, forse è la giusta, se no mi stavo pensando di prendere quella CRT SS 9009, che mi sembra anche più completa di quella che avevo, capito, però devo valutare un po' le cose, adesso vedo se riesce a aggiustarla nel giro di una settimana, 10 giorni, però penso di avere di nuovo una radio funzionante qua come si deve, dai. No, vabbè, quella se te la giusta è buona, era bella Carlo. Io avrei più optato per tenere quella lì, perché almeno per quanto riguarda a me, la mia posizione, la mia radio, la mia ricezione, tutto, da me arrivavi benissimo e senza problemi, guarda, il segnale era buono, la radio era 5, perfetta, era una telefonata, era molto bella. Ripasso il mic a Roberto. No, ma Carlo, l'ho sempre uscito bene, l'ho sempre detto, poi quando le cose sono ben fatte, funziona tutto bene, è adattato bene un microfono, non te la mettete a fare a pasticciare. Ma tu mi hai detto, sei nella strada di Coso, di verso Solo, ma sei nelle zone di Torino prima o dopo? Nelle zone di Torino, lo so dove abitava, almeno non lo so, io non so se abbia cambiato. Torino o Kawasaki? No, io abito dai. Dove c'è il rifornitore della Samuel? Il distributore della Samuel. Ah, ma tu stai parlando, scendendo verso Platamona, dove c'è la Fina, il distributore della Fina, di lì stai distributore. Esatto, io abito a un chilometro da lì. Ah, io pensavo stessi parlando della strada del Soso, Lugulento, passando da San Camillo. No, io sono tra Soso e Porto Torres. Allora stai andando via una bomba tu, io pensavo fossi molto più vicino a Puglia, allora che stai andando, complimenti per tutto, Davide. Io pensavo fossi nella strada di Soso, andando però da San Camillo, di lì, con la zona fuori? No, no Roberto, io sono qua, sono diciamo dove sono le serre. Io sono quasi dentro un buco anche con Foto Sassari e ho considera che c'è tutta la collinetta della Woody Woody. Sono abbastanza coperto, sono abbastanza coperto. Ah, tu sei a livello di segnale di coso, di come si chiama, di Eugenio. Eugenio arriva come te, 9 più 10 da Porto Torres, però tu sei più forte del radio, molto molto più corposo. Allora diciamo che con Eugenio se noi andiamo proprio a vedere, se noi andiamo proprio a fare la diciamo la comparazione della distanza, con Eugenio in linea d'aria io dovrei essere quasi perpendicolare. Capito, solo che Eugenio risulta un po' più in alto di me. Io sono proprio diciamo nella vallata, io sono proprio nella vallata tra Porto Torres e su, metti l'1% su ogni componente della radio e su ogni linea e riesci a raggiungere dei risultati quasi ottimali, quasi ottimali. È certo che sì, pienamente d'accordo. Veramente, oh no, no, complimenti allora per il segnale, stai andando in città, se lo sognano questi segnali, quelli della roccia molte volte non arrivano così forte. Muro solamente a me mi arriva fortissimo, è nascosto completamente, io non so come fa arrivarmi così forte qua, arriva a 9 più 20 Claudio da Muros a me, molto meglio di altri, ed è se tu vai di dove c'è tutta la collina di Scala di Gioca, i palazzi che lo chiudono, eppure arriva forte, mentre vai in altre zone sono un pochettino sacrificato, zone per dire Castelsardo, quelle zone lì, fino a Sorso riesco ad andare bene, poi oltre di lì c'è un po' di difficoltà. Alghero arriva a bomba in tutti i sistemi, sia in maniera amatoriale che qua, poca gente c'ha la posizione che ci vuole verso Alghero, che pulita diciamo aperta, poi c'è Carlo che lui va bene da tutte le parti. Spostazione per il controllo ha superato a Claudio, prima era Claudio Sparviero, adesso è diventato lui il numero uno a Sassari come copertura e forse il secondo sono io, o cosa dici qua? Sì, sì, sì, no, anche io Alghero mi arriva qua, segnali Santiago 9 eccetera, con 4 watt, 5 watt, mi arrivano così. A Porto Torres, idem, 9, 8, capito, ma anche Gavino con l'altra radio aveva un segnale migliore.